Ancora parole di fango, scritte sul mio muro. C'è gente che sa solo sputare, ma non hanno nient'altro da fare. Non saranno le tue parole a farmi cambiare idea. Rimando al mittente ogni commento indecente. Non risponderò alle tue provocazioni. Io canto e canterò e me ne sbatto dei coglioni. Non risponderò a chi istiga violenza. Ti lascio in balia se ce l'hai della tua coscienza. Non risponderò, ho altro a cui pensare. Qui non c'è trippa né odio da spalmare. E me la rido a crepapelle quando ti leggo, mi gratto le palle. Con certa gente non si può parlare, né condividere né ascoltare. E me la rido del tuo sputare che ricadrà sulla tua faccia. Sciacallo in rete, attento il mondo, brucia le ali a chi sputa fango. Amore, non ti preoccupare, è ancora uno che non sa quello che vuole. Ho quasi finito questa canzone, adesso spengo, lascio acceso il tuo cuore. Non risponderò alle provocazioni, io canto e canterò e me ne sbatto dei coglioni. Non risponderò a chi istiga violenza, li lascio in balia se ce l'hanno della loro coscienza. Non risponderò, ho altro a cui pensare. Qui non c'è trippa per gatti, né odio da spalmare. E me la rido a crepapelle quando li leggo, mi gratto le palle. Con certa gente non si può parlare, né condividere né ascoltare. E me la rido del tuo sputare che ricadrà sulla tua faccia. Sciacallo in rete, attento il mondo, brucia le ali a chi sputa fango.